La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, 16:30 primi 19 secondi in diretta qui dalla piovosa Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto diretto in podcast e vi ricorda l'indirizzo. Avete visto che le ultime trasmissioni abbiamo ricominciato a farle su vostra richiesta, quindi la versione di Oscar @radio24.it. Detto questo, vado all'argomento della puntata per chiedervi di intervenire se potete, volete, all'800240024, le opinioni al 3492386666. Lo spunto è una notizia di cronaca, ma la questione è politica. La notizia di cronaca è che oggi in molte città italiane, Padova, Napoli, Bologna, Palermo, Reggio Emilia, Roma, oggi 13 ottobre ci sono state delle manifestazioni, dei flash mob, da parte di chi? Da parte di associazioni che rappresentano oltre 1 milione di italiani non italiani, cioè italiani senza cittadinanza. Che chiedono, chi sono gli italiani senza cittadinanza, lo chiariamo subito, che chiedono che riprenda l'iter parlamentare di una norma. Questa norma è la riforma della legge italiana, appunto, sulla cittadinanza. È un dibattito storico che dagli anni 90 ci portiamo dietro nel nostro paese nei confronti del problema generale che continua a spaccare, a dividere la politica dell'immigrazione, e riguarda il passaggio dal ius sanguinis allo ius soli per dare la cittadinanza a chi nasce in Italia anche se non è figlio di cittadini italiani. Sta di fatto che dopo anni e anni di dibattito la riforma oggi è un anno preciso che dopo l'approvazione della Camera sta in Senato, e in Senato è bloccata, cioè non si hanno cenni neanche dell'inizio dell'esame in commissione di questo testo. Quindi i flash mob che si sono tenuti questa mattina sono rivolti a sollecitare il Senato della Repubblica perché, rispetto al testo approvato dalla Camera a larga maggioranza, perché a votare no è stata solo la Lega e Fratelli d'Italia, e si sono astenuti i parlamentari del 5 Stelle, perché però questo testo riprenda il suo esame al Senato. E in tarda mattinata si è anche svolto un incontro tra i promotori di queste manifestazioni con l'ex ministro per le pari opportunità Anna Finocchiaro e con la relatrice della legge Doris Lo Moro, che è qui con noi oggi pomeriggio insieme a altri due ospiti. Intanto però, siccome l'ho citata, la saluto e la ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio senatrice Lo Moro. Buon pomeriggio anche a lei. Allora, io partirei, chi sono gli altri due ospiti? Gli altri due ospiti sono innanzitutto un giornalista che vive in Italia da 9 anni, perché non dovete immaginare, dopo gli anni accumulati non stiamo parlando solo di bambini e ragazzini, stiamo parlando di gente che magari sta in Italia da anche da 15 anni eccetera eccetera, non è cittadino italiano, nel frattempo all'università è iniziato a lavorare, ecco. Però il problema riguarda 1 milione e oltre di persone, e il secondo ospite è appunto un giornalista, quindi un collega, che vive in Italia dall'età di 9 anni, da quando aveva 9 anni, e si chiama Arber di nome. Il cognome, io non so dove vada l'accento, Agaglio o Agaglio? Agaglio, Agaglio, buonasera. Agaglio, e di provenienza Albania? Sì, esattamente. Allora, e il terzo ospite, per ovviamente dare l'idea piena dello schieramento politico, vi ho ricordato alla Camera chi ha votato sì e chi ha votato noi, abbiamo un deputato della Lega Nord, Cristian Invernizzi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Cristian. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, inizierei con chi rappresenta le associazioni che oggi hanno fatto i flash mob. Quindi, Arber, in poche parole, che impressione avete? È un problema che è relativo al fatto che tutta la politica, siccome non calendarizza da un anno al Senato, in realtà preferisce stare alla larga da questo tema, oppure l'opinione è un'altra? Beh, io personalmente, ma anche i ragazzi che oggi sono scesi in piazza per il flash mob, crediamo che i tempi siano maturi per un cambiamento, siano maturi perché un milione di ragazzi, di bambini nati e cresciuti in Italia vengano riconosciuti figli di questo paese. Ricordiamo la legge 91 del 92 è stata stilata quando in Italia erano presenti qualche centinaio di migliaia di chiamiamo stranieri, mentre adesso siamo più di 5 milioni. I tempi sono maturi per avere comunque una riforma. Dal punto di vista appunto politico, lascio la parola agli altri ospiti che potrebbero certo, diciamo... non rappresentano la politica, ma vuole spiegare a chi è in ascolto naturalmente non lo sa cosa funziona per le seconde generazioni, come funziona oggi per le seconde generazioni ancora con la vecchia legge, e cioè perché si possono aspettare anche 18 anni per chiedere la cittadinanza, e magari poi se non si fa prima del compimento dei 19 anni parte un altro requisito al termine del quale può pure scattare il fatto di rientrare nel paese di origine dopo che si è cresciuti da italiani tra italiani frequentando le scuole italiane. Perché questa cosa è possibile? Come funziona la legge attuale? Certo, innanzitutto paese d'origine, direi dei genitori, esatto. Perché ci sono bambini nati e cresciuti con genitori provenienti da paesi lontani come la Cina e l'India che non hanno mai visitato questi paesi, ma che vengono etichettati come bambini e ragazzi che provengono da questi paesi. Ovviamente un bambino che nasce figlio di genitori non aventi cittadinanza italiana non viene riconosciuto come cittadino italiano e fino al 18° anno d'età non può appunto ricevere la cittadinanza, ha un anno di tempo, ma soprattutto deve vivere in maniera regolare per tutto questo periodo nel territorio nazionale italiano. Io credo che i tempi siano cambiati dal 92, ma soprattutto il numero dei giovani è un numero considerevole per poter cambiare questa cittadinanza e chiamare la legge sulla cittadinanza, scusatemi, e chiamare questi bambini italiani con il loro vero nome. Quindi in parole povere, ripeto, prima dei 18 non si può chiedere, poi dai 18 ai 19 anni si può chiedere, chi non lo fa prima del compimento a quel punto scatta il requisito della permanenza sul territorio di 10 anni continuativi in Italia. In mancanza di questo requisito per una qualunque ragione, a quel punto si può anche essere espulsi, capite? Cioè, se fate la somma di tutti questi anni, questa è in sintesi estrema il condensato e il significato della norma ancora oggi vigente, quella dello ius sanguis, per cui la cittadinanza è sei figlio di chi è emigrato qua, la cittadinanza italiana, può essere nato qua, aver frequentato la scuola italiana, non ce l'hai. Lo ius soli evidentemente invece identifica il criterio del territorio. Allora, detto questo, passiamo un secondo a chi ha votato no alla Camera e che immagino pensi che se il Senato non calendarizza meglio, cioè il deputato della Lega Nord Christian Invernizzi. Qual è il fondamento per il quale, a vostra opinione, questo milione di giovani nati e cresciuti qui nelle scuole italiane è meglio che non ce l'abbiano, se capisco bene, la cittadinanza italiana? No, non è meglio, no, perché attenzione, qui ogni tanto si dimentica appunto che in Italia anche gli stranieri, se vogliono, possono richiedere la cittadinanza italiana. Anche, lo ricordavano tutti, certo. Prima, noi non abbiamo presentato una legge per impedire, certo. Che, ecco, no, perché sennò sembra che passa questo concetto. A nostro avviso la legge così come è oggi va bene, cioè se un ragazzo che nasce qui, fa le scuole qui, arriva ai 18 anni, vuole diventare cittadino italiano, non deve fare altro che richiedere appunto la cittadinanza e può diventarlo, lo può fare, nessuno glielo impedisce, nessuno glielo no, nega. Certo. Oggi c'è questo, quindi noi non è che non vogliamo che i residenti... No, scusi, allora mi sono espresso male e ha ragione a chiarirlo per chi ci ascolta. Non volete però che se nato qua e frequentando le scuole italiane, quindi a quel punto formando la propria personalità, oltre che la propria cultura, la propria capacità di interazione, tutti immersi nella realtà italiana, questo però a vostro diritto, a vostra visione, voglio dire, non conferisce l'opportunità di identificare la cittadinanza come il posto dove sei nato, cresciuto, i valori, la lingua, eccetera, eccetera, che hai crescendo. A differenza, lo capisco, da chi viene da altri paesi, a problemi di lingua, di integrazione, non condivide i nostri valori, eccetera. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. Sì, noi riteniamo che sia necessario chiederla, che sia necessario appunto con questa richiesta dimostrare chiaramente di aver accettato quelli che sono i nostri principi, quella che è la nostra tradizione, quella che è la nostra cultura, basta, la chiedi, non ti è data di diritto, perché magari non la vuoi neanche, qui noi ogni tanto ci domandiamo, diciamo che tutto, ecco, il procedimento parte secondo noi da una prospettiva sbagliata, cioè in base alla quale chiunque non è cittadino italiano ma vive in Italia agogna ad avere la cittadinanza italiana. Noi, guardi, facciamo un ragionamento molto semplice, chiedendo anche cosa sia meglio e basandoci su esperienze degli stati europei che il fenomeno immigratorio lo conoscono da più tempo di noi, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania. A noi piace il modello, per dire, svizzero. In Svizzera molte volte, nessuno lo si ricorda, la Svizzera è molto probabilmente il paese in Europa che ha una percentuale di residenti stranieri rispetto alla popolazione più alta, quasi un cittadino su quattro, un residente su quattro in Svizzera di origine straniera. Non hanno un concetto di cittadinanza fondato sullo ius sanguinis, diciamo un po' temperato, però molto rigido. E in Svizzera non ci sono i problemi che invece ci sono, per esempio, in Francia, magari ci sono in Germania, che ci sono in altri paesi in cui invece è anche possibile. Io ho citato sbagliando la Germania, però parliamo della Francia, o comunque non hanno i problemi di seconda generazione, problemi dei residenti secondo, non hanno tutti questi problemi che nel resto d'Europa ci sono. Cioè, secondo noi, attribuire la cittadinanza così diretta anche a chi magari non la vuole, o a chi poi dimostra, come in Francia, crescendo, di non soltanto non volerla, ma addirittura di contrastarla pesantemente, addirittura rendendosi responsabili di attentati, insomma, dovrebbe farci riflettere su una cosa. Quella della cittadinanza regalata è quello che può garantire alle nostre comunità uno sviluppo coerente, tranquillo, oppure no? Secondo noi no. Allora, voi avete questa posizione. Dall'altra parte io potrei controbattere, è anche vero che negarla fa sentire questo milione di giovani come non cittadini, come vittime di un disconoscimento di un fondamento che, crescendo qui, frequentando la scuola pubblica, eccetera, eccetera, dovrebbe essere automatico. Cioè, io la vedo come una cosa che prescinde dalle opinioni che ciascuno di loro liberamente si farà sul nostro sistema democratico, sui valori di riferimento dei paesi da cui provenivano i loro genitori. Questi sono nati, cresciuti nel nostro paese, ma questa è la mia opinione. Sentiamo come la pensa invece la senatrice del Partito Democratico Doris Lomoro. Le chiedo naturalmente di esprimere considerazioni in relazione alla posizione di chi ha detto no alla Camera, lo direbbe no anche al Senato. Cristian Invernizzi della Lega Nord l'ha appena sentito, ma il problema, perché al Senato è passato un anno innanzitutto? Innanzitutto un chiarimento: in questo anno qualcosa è successo anche nella Commissione Affari Costituzionali, perché si è svolta una discussione generale, si è stato assegnato un termine per gli emendamenti e sono stati depositati dai gruppi politici gli emendamenti. E in particolare sono stati depositati migliaia di emendamenti, soprattutto dalla Lega Nord. Quindi non è che non si è mai incardinato, ma si è arrivata ad una fase che prevede ora l'espressione dei pareri sugli emendamenti e il voto. Sì. E quindi poi si va in aula. Quindi, secondo lei, alla luce anche del calendario della sessione di bilancio che c'è poi, si potrebbe immaginare, lo dico come risposta a chi ha manifestato stamattina, una valutazione temporale approssimativa, ovviamente, di quando poter prevedere il voto commissione e poi aula? Guardi, questo vorrei essere sincera e chiara, perché su cose di questo genere io la penso molto diversamente dal collega. E sul riconoscimento, per me è un riconoscimento di un diritto, non è un qualcosa che va offerto a chi la chiede al 18° anno, ma davanti ai ragazzi che ho visto, che sono nati e cresciuti in Italia e che si sentono e si presentano come italiani, il fatto di tenerli esclusi da questo riconoscimento e quindi dalla vita pubblica, dalla vita sociale, di creare quest'area di estranietà fittizia che loro avvertono come esterna, quasi come una forma di ghettizzazione, perché gli si toglie qualcosa che loro hanno dentro, perché sono italiani fino in fondo. Io la vedo diversamente, penso che sia un dovere da parte degli italiani, dello Stato italiano riconoscerlo, e credo che sia un momento di grande civiltà che stiamo vivendo, perché già nella scorsa legislatura io ero alla Camera dei Deputati e abbiamo cominciato a parlare di questa cosa, e il fatto di scardinare quello che era il principio dello ius sanguinis e di introdurre principi diversi che legano appunto la cittadinanza al luogo in cui si nasce o al luogo in cui si cresce, si segue la scuola e ci si forma come cittadini, lo trovo un'evoluzione assolutamente civile. E devo dire, dal punto di vista temporale, che ogni volta, come è successo anche su altre leggi discusse, parlo di, per esempio delle unioni civili o anche di altre leggi che abbiamo affrontato in questa legislatura e anche intanto in questa legislatura, succede che la politica deve scegliere il momento in cui varare una legge, anche sulla legge sulle unioni civili abbiamo avuto fermi e poi rilanci e poi slanci nuovi. Per carità, abbiamo avuto non solo maggioranza e opposizione, ma tutte le formazioni politiche, distinzioni nette di opinioni. Sì, io ho partecipato attivamente anche come Commissione Affari Costituzionali a quella legge, devo dire è stata molto più complicata e difficile di quello che sarà il diritto, la legge sulla cittadinanza. Il punto è che il nostro Paese, che in questo momento vive sicuramente un momento di relativa stabilità, però le elezioni segnano sempre dei momenti critici, perché le differenze tra le parti si acuiscono, e quindi prima ci sono le amministrative, ora c'è il referendum, e quindi il punto di domanda, quello che ci hanno chiesto oggi quei ragazzi e che l'hanno chiesto la nostra coscienza di uomini e donne prima che a quella di politici, è se devono ancora attendere qualcosa o se è invece proprio i rischi che comporta il referendum, perché il referendum potrebbe vedere prevalere le ragioni del sì o del no, potrebbe esserci l'indomani un momento di maggiore stabilità o invece un momento di destabilità. Quindi il referendum ha avuto un effetto diretto anche nel calendario parlamentare, mi pare di capire, tradotto. Sincerità e chiarezza nell'incontro la Presidente della Commissione, che non ha rimesso in calendario la cittadinanza per tenerla fuori da questa discussione, per evitare che si volgarizzasse anche no, ma questo, ohimè, del resto questa, cari ascoltatori, come una lista infinita di altre decisioni, valutazioni e dibattiti, cioè il referendum del 4 dicembre si è trasformato, ha avuto degli effetti, io se non voglio parlare di paralisi, ma insomma di frenata generale di tutta una serie di questioni, di tutto il calendario dell'agenda politica. Parliamoci chiaro, perché è una scelta che è stata caricata di tale significato, al di là del valore degli articoli, 47 articoli della Costituzione sono modificati, sapete perfettamente, non ve lo devo ripetere, cari ascoltatori, che c'è in ballo un intero assetto politico, ecco, quello attuale rispetto a altri, vedremo quali, nel caso in cui vincesse no. E quindi la risposta è ancora un po' di pazienza, per così dire, da parte della senatrice Romoro. Devo dire che ci sono parecchi ascoltatori che scrivono, i pareri sono divisi, non mi sorprende. Ne leggo uno di quelli che la pensa più come l'onorevole Invernizzi, perché dice: porto la mia esperienza di genitore educatore sportivo, ho a che fare con numerosi casi di bambini e adolescenti nati e cresciuti qua. Tuttavia, ancora per un numero rilevante di loro, almeno a me risulta personalmente, in famiglia non comunicano italiano, e ciò comunque si riflette sul rendimento scolastico, nel rapporto con i coetanei, eccetera, eccetera. Ergo, non diamo per scontato che il solo fatto di vivere e essere cresciuti qua, peraltro fondamentale, lo riconosce il nostro ascoltatore, risolva però automaticamente il problema di una, tra virgolette, lui dice, problematicità. Insomma, non lo so, ecco, questo lo riporto come un parere, non perché lo consideri, però lui dice: nella mia esperienza è ancora così. Io conosco realtà molto diverse, invece, tanto nella mia città di provenienza, Torino, quanto in altre parti d'Italia, e cioè conosco appunto figli di immigrati nati e cresciuti qua che in realtà considerano un bonus incomprensibile il fatto di non essere cittadini come gli altri, come i compagni di scuola, di università e così via. Detto tutto questo, un minuto di informazione stradale e poi torniamo con i nostri ospiti, chiedendo a questo punto di nuovo ad Arber la sua impressione da quello che ha sentito, quanto dovranno ancora aspettare prima di una decisione che poi naturalmente in Senato bisognerà vedere che tempi avrà e che maggioranze naturalmente avrà, perché in Senato sapete i numeri sono diversi che alla Camera. Tra un minuto. La la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, tema del giorno con i flash mob che ci sono stati stamattina in molte città italiane, a un anno dall'approvazione da parte della Camera della riforma del diritto di cittadinanza italiana, quindi passando allo ius soli, riconoscendo la cittadinanza a chi nasce, cresce nel nostro paese, non solo a chi è figlio di cittadini italiani, oppure no. Dopo un anno, adesso vediamo al Senato, abbiamo con noi la senatrice del Partito Democratico Doris Lomoro, magistrato tra l'altro, questa è la sua professione della vita, che ci ha ricordato, sì, il referendum ci ha un po' frenato, ma andremo avanti. Arber Agaglio, giornalista albanese che vive in Italia dall'età di 9 anni, non cittadino italiano. Cristian Invernizzi, che ha cominciato dicendo le ragioni del no per la Lega Nord a questa misura, dicendo prendiamoci tempo, oggi possono chiederlo da quando hanno 18 anni. Tra l'altro alcuni ascoltatori dicono, ma si può sapere qual è il numero di coloro che a 18 anni la chiedono davvero? È un problema così diffuso oppure no? Beh, insomma, si direbbe che è un problema diffuso, a dire la verità. Però ci sono anche ascoltatori, sentiamo in linea le loro telefonate, ma vi chiedo di essere brevi, cominciando con Giovanni da Bari. Prego, Giovanni. Buonasera, dottor Giannino. Sì. Io leggevo su una rivista internazionale, non mi ricordo se fosse il New York Times o cosa, di un sondaggio fatto a livello internazionale, ma abbastanza imparziale, che diceva che il 90% degli immigrati in una nazione, e parlo Francia, in Italia, una nazione qualunque, il 90% degli immigrati vota a sinistra, diceva questo sondaggio. Quindi lei dice, ecco perché, chi vuole accelerare perché vuole quei voti, rendendoli sottili. Non ci vuole molto. Le ripeto, era un sondaggio imparziale letto su una rivista, mi sa, americana, non era sicuramente una rivista italiana. Allora, ecco, primo tema, che spiega però, anche perché la politica la pensa diversamente. Patrizia da Treviso, rapida. Buongiorno. Sono italo-brasiliana, ho lavorato al consolato italiano a Belo Horizonte, ho fatto la mia tesi di laurea sulla cittadinanza italiana e ho potuto riscontrare, facendo questo lavoro, che la maggior parte delle richieste di cittadinanza italiana da parte di discendenti, sì, dalla vecchia immigrazione italiana lì non sono affatto interessati alla cultura, alla tradizione, alla lingua, ma sono interessati ad acquisire un passaporto italiano per andare altrove. E quindi non trovo giusto che si rilasci la cittadinanza a questi che non sanno neanche parlare italiano, che non conoscono la cultura e la lingua, invece a chi nasce e cresce sul territorio italiano non sia concessa. Ah, ecco, cioè quindi è favorevole però a chi nasce e cresce nel nostro paese. Certo, ah, ecco, certo. No, ho capito la distinzione. Agostino da Milano? Sì, comunque anch'io sono straniero come il tuo ospite, sono albanese. Sì, da quanto in Italia? E io sono in Italia dal 91, tanti anni. Dal primo giorno che sono stato in Italia non mi sono mai sentito straniero, perché non è un pezzo di carta che ti garantisce che sei straniero o sei italiano. Io ho una figlia che è nata, cresciuta qua, quando ha avuto 18 anni ha fatto la sua richiesta a cittadina italiana. Sì. Mi creda, mia figlia, anche lei non si è mai sentita straniera in questo paese. Invece se una figlia nasce in Italia, subito la cittadinanza, poi sì, i genitori la obbligano a mettere il burka, è ovvio che lei non sarà mai italiana. Quindi lei dice non è il pezzo di carta. Questo è interessante, però come vedete ci sono opinioni aperte anche nelle comunità di chi ci telefona. Non è un sondaggio statisticamente ovviamente rilevante quello di chi ci telefona, però intanto noi continueremo a battere la questione. Io ringrazio i nostri tre ospiti, Cristian Invernizzi, Doris Lomoro e Arber Agaglio. La mia opinione, che è più favorevole al sì, conta poco. Vedremo che cosa succede, soprattutto attualmente come andrà il referendum, che a questo punto decide anche di questo. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:20 con me domani mattina e Alessandro Mina, attenti noi due.